il mio amore tornerà da me. Nel cielo una stella splenderà, si è spenta da quando il mio sogno ha svanito, da quando il mio amore fugge da me. Quando il mio amore tornerà da me, nel mare una perla nascerà, saranno le lacrime che ha pianto la stella nel veder solo e triste il mio cuore. Tornerà da me, nel cielo una stella splenderà, si è spenta da quando il mio sogno è svanito, da quando mio amore fuggì da me. Quando il mio amore tornerà, nel mare una perla nascerà, saranno le lacrime che ha pianto la stella nel veder solo triste il mio cuore. Quando il mio amore tornerà da me, nell'aria un violino suonerà, la musica dolce scenderà nel mio cuore e il tempo si fermerà solo quando il mio amore tornerà. Da me.